Capitolo 2. L'anno successivo si aprì con la continuazione dell'intenso freddo che provò gravemente una costituzione già insidiata dall'ansia e dalle preoccupazioni. Miss Bronte dice di aver perso l'appetito e di aver assunto un aspetto grigio, vecchio, consunto e distrutto, causa la sofferenza patita durante l'inclemente stagione. Il freddo le ha portato un forte mal di denti, il mal di denti una successione di notti insonni e angosce. La prolungata mancanza di sonno ha influito gravemente sull'equilibrio nervoso, raddoppiandone la sensibilità alle dolorose condizioni di vita. Tuttavia, rifiuta di dare la colpa della cattiva salute alla instabilità della mente inquieta, poiché, dopo tutto, scrive in quei giorni: «Ho molte cose di cui essere grata». Ci si può rendere conto dello stato reale delle cose dai brani di lettere qui sotto riportati. 1 marzo 1847. Anche a rischio di sembrare molto esigente, non posso trattenermi dal dire che ricevere una lettera lunga quanto l'ultima ogni volta che mi scrivi mi farebbe molto piacere. I tuoi biglietti brevi mi lasciano con l'impressione di una porzione piccolissima di ottimo cibo, stuzzicano l'appetito senza pagarlo. Una vera lettera lascia più soddisfatto chi la riceve. Tuttavia, ragion veduta, sono anche contentissima di ricevere dei biglietti, perciò non ti far venire in mente quando sei a corto di tempo di notizie che scrivermi poche righe sia inutile. Sta certa che poche righe sono accettabili per quel che valgono, e benché mi piacciano le lunghe lettere, non vorrei per nulla al mondo che lo scriverle costituisse per te un compito faticoso. Desidererei proprio che tu venissi a Haworth prima che io torni nuovamente a B. È naturale che provi questo desiderio. Per mantenere l'amicizia nel giusto equilibrio, la bilancia dei buoni unici deve essere rispettata, altrimenti si fa strada una sensazione inquieta, ansiosa, che ne distrugge l'armonia. In estate, col bel tempo, la tua visita qui si può organizzare assai meglio che in inverno. Potremo uscire di più, essere più indipendenti. Ultimamente Bronwell si è comportato in modo pessimo. Dalla stravaganza della sua condotta e dalle allusioni che lascia cadere, non parla mai apertamente, penso che presto avremo notizie di altri debiti da lui contratti. La mia salute è migliorata, ne attribuisco la debolezza al freddo più che a una mente inquieta. 24 marzo 1847. Se tutto andrà bene, è a Haworth che avverrà il nostro prossimo incontro. Ce l'ho con te per aver dato a Miss M un resoconto assai esagerato delle condizioni della mia salute, inducendola così a insistere affinché mi allontani da casa. La prossima volta, quando mi sentirò brutta e vecchia più del solito, avrò cura di non informartene, come se non si potesse indulgere a questa constatazione senza che le altre pensino che siamo giunte all'ultimo respiro. Al mio prossimo compleanno gli anni saranno 31. La giovinezza è svanita, e che uso ne ho fatto? Cosa ho fatto in questi 30 anni? Ah, ben poca cosa. Il tempo continuò a scivolare via, quieto e triste. Le sorelle potevano osservare da vicino, ora per ora, in quel fratello che un tempo era stato il loro amatissimo tesoro e il loro più caro motivo di orgoglio, i terribili effetti di un talento male impiegato, dell'abuso delle facoltà di cui era dotato. Dovevano sostenere il povero padre, nel cui cuore le dure prove penetravano profondamente senza che egli infrangesse lo stoico silenzio in cui le sopportava. Dovevano risparmiare al massimo la sua vista, parzialmente recuperata. Dovevano tenere sotto controllo la sua salute, del cui stato egli raramente si lamentava. Dovevano dirigere il frugale andamento della casa, in modo da poter far fronte a spese e a necessità estranee alla loro indole, naturalmente portata a negarsi tutto quanto sembrava loro superfluo. Pur evitando frequenti contatti coi vicini, avevano gentili parole per quelli che incontravano casualmente. In caso di necessità non risparmiavano fatiche purché l'aiuto da dare fosse alla loro portata. Prestavano doverosamente la loro opera alle scuole parrocchiali, e spesso le rare e brevi vacanze che Charlotte si concedeva per recarsi ospite da un'amica furono accorciate al pensiero di quanto era necessaria la sua presenza nella scuola domenicale dove insegnava regolarmente. Nei momenti di tempo libero Jane Eyre progrediva, mentre The Professor continuava il lento itinerario da un editore all'altro. Cime Tempestose e Agnes Grey erano stati accettati da un nuovo editore a condizioni alquanto modeste per le due autrici. Più in là tornerò a parlare di questo contratto. L'unico punto luminoso al quale le sorelle rivolsero lo sguardo durante quei mesi estivi fu la speranza che l'amica, alla quale sono indirizzate tante lettere di Charlotte, che era la sua compagnia preferita, non appena le circostanze lo permettevano, potesse venire ospite da loro a Haworth. Maggio aveva portato il bel tempo, scrive Charlotte, e le sorelle sperano di poterle offrire un'ospitalità abbastanza comoda. Il fratello stava discretamente bene, dopo aver dato fondo ad una considerevole somma di denaro di cui era venuto in possesso all'inizio della primavera, era ormai costretto all'astinenza imposta dalla povertà. Charlotte avverte l'amica che ne troverà il fisico sensibilmente cambiato e la mente a pezzi e chiude la lettera d'invito dicendo: "Prego il cielo che ci conceda bel tempo, cosicché mentre sarai qui noi due si possa uscire." E finalmente fissarono la data. Venerdì andrà benissimo per noi. Confido che ormai non avverrà nulla che impedisca la tua venuta. Starò in pensiero per il tempo in quel giorno. Se dovesse piovere, piangerei. Non contare che io ti venga a prendere, a che servirebbe? A me non piace andare ad aspettare i viaggiatori in arrivo, né che si venga ad aspettare me. A meno che, naturalmente, tu abbia un cesto o una valigia da trasportare, se ciò fosse, vi sarebbe una buona ragione per la mia presenza. Vieni vestita di nero, di blu, di bianco, di rosa o di scarlatto, come meglio ti piace. Vieni vestita elegantemente o in modo trasandato. Né il colore né la condizione del vestiario hanno importanza, purché il vestito contenga e tutto il resto non conta. Ma vi fu un susseguirsi di delusioni. Dal seguente commento si capisce quanto siano state amare. 20 maggio. La tua lettera di ieri mi ha procurato una delusione crudele. Un vero gelo. Non te ne voglio perché so che non è stata colpa tua. In colpo. Quanto dico è amaro, ma io mi sento amara. In quanto a una mia venuta a B, non farò un passo in quella direzione finché tu non sarai venuta qui. I miei rispetti a tutti, accompagnati da Senzio e Fiele. Dalle effusioni qui sopra, solamente tu e tua madre siete escluse. Charlotte Bronte. Se lo giudichi appropriato, sei assolutamente libera di riferire quel che penso, anche se è vero che posso essere ingiusta, visto che sono profondamente irritata. Pensavo di aver sistemato ogni cosa abbastanza bene per la tua venuta in questo momento. Forse mi sarà più difficile in un'altra occasione. Debbo citare anche un'altra lettera scritta contemporaneamente per mettere in luce il saldo buonsenso di chi scrive. Mi ha divertito quel che dice sul suo desiderio di avere un marito dotato di forte volontà, anche a costo di trovarsi vicino a un tiranno. Dille, quando esternerà nuovamente questa aspirazione, di metterla al condizionale. Se suo marito avrà una forte volontà, speriamo che sia in possesso di un saldo buonsenso, un cuore gentile, una esatta nozione di ciò che è giusto, poiché un uomo con un debole cervello e una forte volontà, sarebbe intrattabilmente bruto. Non si potrà mai far presa su di lui, non si potrà mai indirizzarlo verso una meta giusta. Un tiranno in ogni circostanza è una maledizione. Lo scritto, The Professor, intanto continuava a collezionare rifiuti. Alcuni formulati senza alcuna cortesia, dato che gli editori scrivevano a un autore sconosciuto. Nessun motivo del rifiuto veniva offerto. La cortesia non dovrebbe mai essere trascurata, ma un novellino non può aspettarsi che il direttore di una grande casa editrice trovi il tempo di spiegargli perché il lavoro inviato in esame viene rifiutato. Tuttavia, l'infelice scrittrice o scrittore si sente delusa e amareggiata e si capisce che un ennesimo rifiuto, accompagnato però da una lettera cortese, sia caduto come un dolce refrigerio sulla mente avvilita di Currer Bell. Tale fu per lei la lettera con cui i signori Smith e Elder le restituirono il manoscritto di The Professor. Ecco le parole con cui Charlotte ricorda l'avvenimento. Con poca speranza tentammo un nuovo passo presso un'altra casa editrice. Dopo non molto tempo, essendo intercorsa un'attesa assai più breve di quanto l'esperienza ci avesse fatto prevedere, ci giunse una lettera che aprimmo con la rassegnata, triste certezza di trovarvi due secche righe con cui i signori Elder e Smith annunciavano che non erano disposti a pubblicare il manoscritto. Invece, dalla busta estremo una missiva di 2 pagine che fu letta tremando. Declinava di pubblicare quella storia per motivi commerciali, ma ne analizzava i meriti e i demeriti con tanta cortesia, con tanta considerazione, con un'analisi così razionale e una così illuminata acutezza, che quel rifiuto valse a sollevarmi lo spirito più di quanto avrebbe fatto una impersonale accettazione. Alla fine suggeriva che un lavoro in 3 volumi sarebbe stato preso in esame con attenzione. Mr. Smith, parlandomi, ha aggiunto alcuni particolari. Il manoscritto era giunto involto in carta marrone, oltre all'indirizzo dei signori Smith & Co. 65 Cornhill, nell'involucro erano tracciati indirizzi di altri editori, non nascosti, ma semplicemente cancellati con un tratto di penna, in modo che il signor Smith scorse immediatamente i nomi delle case concorrenti alle quali l'infelice plico era stato inviato senza successo. Oltre al manoscritto, conteneva le seguenti righe: ai signori Smith e Elder, 15 luglio 1847. Signori, chiedo il privilegio di sottomettere al loro esame il manoscritto qui accluso. Desidererei sapere se esso è tale da meritare la loro approvazione e se sarebbero disposti a intraprenderne la pubblicazione quanto prima. Indirizzino la risposta a Mr. Carter Bell presso Miss Bronte, Haworth, Bedford, Yorkshire. Mentre aspettava la risposta, le tornò in mente che, alquanto tempo prima, non ricevendo riscontro da uno degli editori al quale aveva inviato un suo lavoro, aveva chiesto al fratello qual era, secondo lui, il motivo di quel silenzio, e lui le aveva detto che probabilmente da Londra non si facevano vivi perché aveva trascurato di accludere il francobollo per la francatura della risposta. Anche questa volta era in difetto, perciò scrisse nuovamente riparando l'omissione. Ai signori Smith e Elder, 2 agosto 1847. Signori, 3 settimane fa inviai loro un manoscritto di Currer Bell intitolato The Professor affinché lo esaminassero. Vorrei sapere se è giunto sano e salvo nelle loro mani e contemporaneamente essere informata quanto prima sarà loro possibile farlo, se è tale da indurli a pubblicarlo. Sono, signori, rispettosamente Currer Bell. Accludo una busta indirizzata e affrancata per la risposta. Questa volta la sua lettera ebbe un pronto riscontro, contenente un rifiuto che, tempo dopo, nella prefazione alla seconda edizione di Cime Tempestose di Emily, ella riconobbe così cortese, delicato e ragionevole da essere più appagante di certe accettazioni. Infatti, a 4 giorni di distanza, scrive nuovamente all'editore, commentando il rifiuto. La sua obiezione circa la carenza nella storia di interessi diversi è, me ne rendo conto, non priva di fondamento. Tuttavia mi pare che potrebbe essere pubblicato senza rischio se la sua comparsa fosse seguita da un altro lavoro scritto dalla stessa persona con un intreccio più avvincente e movimentato. Il primo lavoro potrebbe servire da introduzione al secondo, abituando il pubblico al nome dell'autore e aumentandone così le possibilità di successo. Ho in via di svolgimento un'altra narrazione in 3 volumi quasi terminata, nella quale mi sono sforzata di mettere maggiori interessi di quanti se ne trovino in The Professor. Spero di finirla da qui a 1 mese, cosicché se The Professor trovasse un editore, la seconda storia seguirebbe appena lo si ritenesse consigliabile, e così l'interesse del pubblico, se un qualche interesse vi fosse, non avrebbe il tempo di raffreddarsi. Vuole essere tanto gentile da favorirmi, facendomi conoscere il suo giudizio su questo progetto? Mentre le 3 sorelle erano in questo stato di trepida incertezza, l'amica venne a fare la così lungamente attesa visita, più volte rinviata. Venne da loro all'inizio dello splendente agosto di quell'anno. Se ne stavano all'aperto sulla brughiera per la maggior parte della giornata, crogiolandosi al sole dorato che faceva crescere un raccolto eccezionalmente abbondante, per il quale qualche tempo dopo Charlotte manifestò il desiderio che in tutte le chiese si celebrasse una funzione di ringraziamento. Agosto era la stagione di gloria per i dintorni di Haworth. Perfino il fumo che stagnava nella valle tra quel villaggio e Keighley era abbellito dai radiosi colori della brughiera. La ricca tinta porporina dell'erica in fiore dà vita a un contrasto armonioso grazie alla luce di un fulvo dorato che, nelle calde serate estive, penetra per ogni dove impregnando l'ombra opaca delle pieghe del suolo. E sulla brughiera, lontana da ogni abitazione, La distesa regale a perdita d'occhio si gonfiava nelle grandi onde delle colline color ametista che svanivano a poco in aeree sfumature. Il profumo fresco e fragrante dell'erica e il monotono ronzio di innumerevoli api davano intensità al piacere con cui accoglievano l'amica fra quelle selvagge, aperte colline che erano la loro dimora. Inoltre lassù potevano sfuggire alle ombre che gravavano sulla casa là in basso. Nonostante l'intima convivenza e il continuo scambio di confidenze all'amica, non fu detta una sola parola circa le tre storie inviate a Londra, due delle quali erano in corso di stampa, una in attesa di giudizio. Né fu fatta parola di quell'altro lavoro quasi finito che riposava chiuso in un cassetto nella vecchia grigia canonica. L'amica aveva intuito che le tre sorelle scrivevano nella speranza di venire pubblicate un giorno o l'altro, ma sapeva quali limiti imponevano alle confidenze. Né lei né chiunque altro poteva meravigliarsene, ricordando come uno dopo l'altro i loro progetti fossero naufragati proprio quando sembravano sul punto di realizzarsi. Anche Mr. Bronte sospettava qualche cosa, ma siccome non gli dicevano nulla, non fece domande. E in proposito le sue idee erano vaghe e incerte, ma abbastanza profetiche da impedirgli di essere stupefatto quando seppe del successo di Jane Eyre, alla cui creazione è ora tempo di ritornare. Ai signori Smith e Elder, 24 agosto. Oggi spedisco loro per ferrovia un manoscritto intitolato Jane Eyre, romanzo in tre volumi scritto da Currer Bell. Non ho potuto pagare l'importo della francatura perché la piccola stazione dove ho lasciato il pacco spedisce solamente con pagamento alla consegna. Se loro, quando mi daranno riscontro dell'avvenuta consegna del manoscritto, avranno la gentilezza di informarmi di quanto hanno dovuto pagare nel ritirarlo, farò loro avere immediatamente il corrispettivo in francobolli. Sarà meglio che in avvenire indirizzino a Mr. Currer Bell presso Miss Bronte, Haworth, Bradford, Yorkshire, visto che le lettere diversamente indirizzate rischiano di non giungere nelle mie mani. A scanso di equivoci, includo una busta indirizzata. Jane Eyre fu accettata, stampata e pubblicata entro il 16 ottobre. Mentre era in corso di stampa, Miss Bronte si recò per una breve visita dalla sua amica E. Le bozze di stampa le furono fatte per venire là e talvolta Charlotte, per correggerle, sedeva a uno stesso tavolino con lei, ma non scambiarono una parola sull'argomento. Subito dopo il ritorno alla canonica scrisse: «Settembre. Ho dovuto fare una camminata da Keighley alla canonica nel vento e sotto la pioggia, ma la stanchezza è scomparsa completamente appena giunta a casa, dove trovai tutti bene. Ne rendo grazie a Dio. Le mie valigie sono arrivate questa mattina sane e salve. Ho distribuito i regali. Papà vuole esserti ricordato con affettuosissima cordialità. Tabby è incantata dalla sua cuffia. Ha detto che non aveva mai pensato a qualcosa di simile a quanto Miss E le ha mandato e sente che non potrà mai ringraziarla abbastanza. Trovando il vaso nel mio baule mi sono infuriata. Ho sperato che fosse vuoto, ma quando ho constatato che era pieno fino all'orlo, avrei voluto scagliarlo indietro a B. Tuttavia, la scritta A B mi ha raddolcita parecchio. È stato da parte tua al tempo stesso gentile e scellerato il mandarlo. Dovresti prima essere teneramente baciata e poi con altrettanta tenerezza frustata. In questo momento Emily è in contemplazione delle sue mele, inginocchiata sul pavimento della camera da letto dove sto scrivendo. Quando le ho dato il colletto dicendole che era un tuo regalo, ha sorriso con grande compiacimento, misto a leggera sorpresa. Tutte ti mandano saluti affettuosi, tua con un misto di collera e di grandissimo affetto. Quando il manoscritto di Jane Eyre fu spedito ai futuri editori del celebre romanzo, toccò leggerlo per primo a un collaboratore, il quale ne rimase così fortemente impressionato da riferirne in termini talmente elogiativi a Mr. Smith da sorprenderlo e divertirlo. Lei mi sembra così stregato dalla lettura del manoscritto che non so come prestare fede al suo giudizio, gli disse. Ma quando un secondo lettore, uno scozzese dal saldo buonsenso, poco propenso all'entusiasmo, dopo aver portato con sé il manoscritto a casa di sera, ne era stato talmente preso da star su più di metà della notte per finire la lettura, beh, la curiosità di Mr. Smith fu risvegliata tanto da indurlo a leggere il lavoro personalmente. Si convinse così che gli elogi, per quanto grandi, non erano eccessivi. Appena uscito il romanzo, alcune copie furono inviate in omaggio agli amici dell'editore che avevano una posizione nel mondo delle lettere. La loro reazione era stata prevista da questi con giusto ottimismo. Tutti, insieme con i ringraziamenti per l'invio, espressero un alto apprezzamento per il lavoro. Fra questi vi era il grande romanziere al quale Miss Bronte tributava molta ammirazione. Egli, in una caratteristica lettera agli editori, riconobbe straordinari meriti all'opera. Le critiche ufficiali giunsero più lentamente e furono più prudenti. L'Ateneum e lo Spectator diedero un breve annuncio dell'uscita del romanzo, insieme a un autorevole riconoscimento delle doti dell'autore. La Gazzetta Letteraria si manteneva prudentemente sulle generali. Il Daily News non accettò la copia inviatagli, giustificando il rifiuto in base alla consuetudine di non recensire mai i romanzi. Ma successivamente apparve su quella rivista una notizia informativa a proposito di un romanzo dal titolo Lo scapolo dell'Albany e i signori Smith e Elder inviarono nuovamente una copia di Jane Eyre al direttore di quella rivista, richiedendo la pubblicazione di una notizia in proposito. Questa volta il volume fu accettato, ma non sono informata circa il carattere del giudizio che ne fu dato. L'Examiner venne alla riscossa nel campo della critica letteraria. Gli articoli di critica letteraria in quel giornale erano sempre improntati a geniale e generoso apprezzamento del merito. Non fece eccezione la recensione di Jane Eyre, improntata a una lode calorosa, nonché delicata e acuta. Eccezion fatta per l'Examiner. La stampa in generale fece poco per promuovere la vendita del romanzo. Ma la richiesta dei librai era incominciata già prima della recensione apparsa su quella rivista. La forza, il fascino del romanzo stesso ne fecero conoscere i meriti al pubblico, senza bisogno di indicazioni da parte dei critici di professione, e ai primi di dicembre incominciò la corsa per procurarsene una copia. A questo punto inserirò alcune lettere scritte da Miss Bronte ai suoi editori. Esse dimostrano quanto timidamente fu accettata l'idea del successo da una persona così poco abituata all'ottimismo su tutto ciò che la toccava personalmente. Le lettere stesse spiegano le occasioni in cui furono scritte. Ai signori Smith Elder, 19 ottobre 1847. Signori, le 6 copie di Jane Eyre mi sono giunte questa mattina. Avete dato al lavoro tutti i vantaggi che una buona carta, caratteri chiari e un piacevole aspetto esteriore possano offrire. Se non avrà successo, la colpa sarà dell'autore. Voi ne andrete esenti. Ora aspetto il giudizio della stampa e del pubblico. Sono, signori, rispettosamente, Currer Bell. Ai signori Smith e Elder, 26 ottobre 1847. Signori, ho ricevuto i giornali. Parlano di Jane Eyre con quel tanto di favore che mi aspettavo da parte loro. La recensione nella Gazzetta Letteraria sembra impostata fiaccamente e l'Ateneum ha uno stile tutto suo che rispetto, ma che veramente non può darmi piacere. Tuttavia, se si considera che pubblicazioni della loro importanza hanno una dignità da mantenere, che verrebbe meno a causa di un riconoscimento troppo cordiale di uno scrittore sconosciuto, suppongo di avere motivo di considerarmi soddisfatta. Nel frattempo, un'attiva vendita varrebbe da sostegno efficace per controbilanciare il peso dell'altezzosità di certi critici. Sono, signori, rispettosamente loro, Currer Bell. Ai signori Smith e Elder, 1 dicembre 1847. Signori, mi è giunto oggi l'Examiner. Era andato smarrito a causa dell'indirizzo Currer Bell presso Miss Bronte. Mi permetto di segnalarvi che in avvenire sarà meglio omettere il nome di Currer Bell dalle comunicazioni che, se indirizzate a Miss Bronte, avranno maggiore probabilità di giungere a destinazione con sicurezza. Currer Bell non è conosciuto nel nostro distretto e io non desidero che lo sia. La recensione dell'Examiner mi ha dato grande soddisfazione. Mi sembra uscita dalla penna di un uomo capace che ha capito quanto si accingeva a recensire. Naturalmente una simile approvazione è gratificante e incoraggia uno scrittore. Confido che si dimostri proficua per il lavoro. Sono, signori, rispettosamente vostro, Currer Bell. Ho ricevuto altre 7 recensioni di giornali provinciali in una busta. Vi ringrazio sinceramente del vostro puntuale invio di tutte le critiche su Jane Eyre. Ai signori Smith e Elder, 10 dicembre 1847. Signori, ho il piacere di accusare ricevuta della vostra lettera con accluso un assegno bancario del quale vi ringrazio, avendo già espresso il mio apprezzamento per la vostra cortese e correttissima condotta nei miei riguardi. Confido che sempre avrete motivo di essere soddisfatti di me come io lo sono di voi. Se il risultato di un qualsiasi altro mio sforzo letterario dovesse dimostrarsi di gradimento e vantaggio per voi, ne sarò lietissimo. E sarebbe un serio motivo di dispiacere per me il pensare che possiate aver cagione di rimpiangere di essere miei editori. Non dovete scusarvi, signori, di avermi scritto così raramente. Naturalmente sono sempre lieto di leggervi, ma leggo anche con grandissimo piacere Mr. Williams. È il primo critico che mi sia stato favorevole. Per primo mi incoraggiò a perseverare nell'attività di scrittore e perciò lo rispetto e gli sono grato. Scusino la mancanza di formalismo di questa lettera e mi credano, signori, il rispettosamente loro Currer Bell. Poco si sa sul come le notizie del meraviglioso successo di una di loro toccò i cuori delle tre sorelle. Un giorno, mentre stavo parlando con Charlotte della descrizione della scuola di Lowood in Jane Eyre, e lei mi diceva che non era sicura che l'avrebbe fatta se avesse saputo quanto facilmente sarebbe stata identificata con quella di Cowan's Bridge, le chiesi se la popolarità raggiunta dal romanzo l'avesse colta di sorpresa. Mi rispose dopo una breve esitazione. Ero convinta che ciò che mi aveva con tanta forza impressionata mentre lo scrivevo dovesse fare una grossa impressione su quanti lo avrebbero letto. Non fui sorpresa che i lettori di Jane Eyre ne fossero profondamente interessati, ma non mi aspettavo che il romanzo di uno scrittore sconosciuto ne trovasse tanti. Le sorelle avevano nascosto al padre le loro avventure letterarie, non volendo aggiungere alle proprie ansie quelle di lui, visto che prendeva un intenso interesse in tutto quanto accadeva ai suoi figli, tanto più che in gioventù anche egli aveva sperato di realizzarsi scrivendo. È vero che manifestava raramente a parole quanto sentiva. Si credeva preparato alle delusioni e quando si presentavano le sopportava con stoicismo, ma le parole sono povere e lente interpreti di emozioni fra coloro che sono uniti da un forte amore, e le sue figliole sapevano che un loro insuccesso gli sarebbe stato più amaro di uno suo proprio. Così non gli avevano detto quello che stavano tentando. Adesso egli dice di aver intuito ogni cosa, pure senza essere in grado di dar forma precisa alle sue congetture, visto che era sicuro solamente di un fatto, che le figliole erano perpetuamente intente a scrivere e che non si trattava di lettere. Abbiamo visto come le comunicazioni degli editori erano indirizzate presso Miss Bronte. Una volta, mi raccontò Charlotte, udirono il postino che incontrando Mr. Bronte mentre usciva di casa gli chiedeva dove mai vivesse un certo Currer Bell. E il pastore rispondeva che nessuno con quel nome viveva nella parrocchia. Questa deve essere la disavventura alla quale Miss Bronte allude all'inizio della corrispondenza con Mr. Aylott. Tuttavia, dopo che la richiesta del libro da parte di un vasto pubblico ne ebbe assicurato il successo, le sorelle indussero Charlotte a informare il padre dell'uscita di Jane Eyre. Per questa ragione, una sera, dopo il pranzo che era solito consumare assai per tempo, Charlotte si recò nello studio portando con sé una copia del libro e una o due recensioni, avendo cura di includerne una sfavorevole. Riferisco la conversazione che, a quanto mi disse, si svolse su per giù nel seguente modo. Sono sicura di riportarla fedelmente perché la registrai l'indomani del giorno in cui la udii dalle labbra dell'interessata. Papà, ho scritto un libro. Davvero, cara? Sì, e desidero che tu lo legga. Oh, temo sia uno sforzo troppo grande per i miei occhi. Ma non è un manoscritto, è stampato? Mia cara, non hai pensato che spese andavi incontro? Sarà quasi certamente una perdita perché come potrai riuscire a venderlo? Nessuno conosce il tuo nome. Papà, non penso di andare in perdita e credo che neanche tu lo penserai se mi permetti di leggerti una recensione o due e dirtene qualcosa di più. Così si mise a sedere e lesse al padre alcune delle recensioni e poi, dopo avergli dato la copia di Jane Eyre che gli destinava, uscì dallo studio lasciandolo libero di leggerlo. Quando raggiunse le figlie per l'ora del tè, disse: Ragazze, sapete che Charlotte ha scritto un libro e che è migliore di quanto avrei pensato? Ma mentre l'esistenza di Currer Bell e lo scrittore sembrava un sogno ai tranquilli abitanti della canonica di Haworth, che continuavano la loro monotona vita, in cui le preoccupazioni per il fratello costituivano l'unico elemento di varietà, tutta la consorteria dei lettori in Inghilterra era in fermento per scoprire lo sconosciuto autore di Jane Eyre. Perfino i suoi editori ignoravano se Currer Bell fosse il suo vero nome, oppure uno pseudonimo, se si trattasse di un uomo o di una donna. In ogni città la gente esaminava l'elenco dei propri conoscenti, quello degli amici, senza trovare la soluzione desiderata. Nessuno aveva genio bastante perché gli si potesse attribuire il merito di aver scritto quel capolavoro. Ogni minimo incidente menzionato nel racconto veniva analizzato da tutti i punti di vista per chiarire, soprattutto, la controversa questione del sesso, ma ogni sforzo era vano. Così ci si rassegnava a non vedere accontentata la curiosità e intanto si leggeva e si ammirava. Non ho l'intenzione di scrivere qui l'analisi di un romanzo che ogni lettore di questa biografia certamente conosce, e ancora meno di stilare la critica di un lavoro che la grande ondata del pubblico favorevole ha fatto uscire dall'oscurità in cui nacque per deporlo alto e sicuro sulla cima delle eterne colline della fama. Davanti a me è posato un pacchetto di estratti da giornali e da periodici che Mr. Bronte mi ha fatto avere. Suscita commozione esaminarli e toccare con mano e vedere come la benché minima notizia in proposito, per quanto breve e goffamente stilata, sia stata accuratamente ritagliata e contrassegnata con la data dal povero padre in lutto, così orgoglioso quando le aveva lette per la prima volta, così desolato ormai. Tutte e ciascuna cantano le lodi del grande genio fino a poco tempo prima sconosciuto, improvvisamente rivelatosi. Le congetture circa il vero essere dello scrittore si diffondevano come un indomabile incendio. A Londra, intellettuali dai modi levigati e cortesi quali erano quelli degli antichi ateniesi e che passavano il tempo solamente alla ricerca di qualche novità, scoprivano con delizia la sensazione nuova, il fresco piacere di uno scrittore capace di dipingere con titanica forza personaggi energici, autosufficienti, precisi, segnati dall'impronta della razza che, lungi dall'essere esemplari di una specie estinta al nord, esistevano ancora. Tuttavia, pensavano che nella forza con cui erano tracciati vi fosse una certa esagerazione. I lettori, che vivevano più vicino al luogo dove la vicenda si svolgeva, erano sicuri che non era stata inventata da uno scrittore del sud, data l'accuratezza, la verità dei particolari. Per quanto scuro, freddo, rude sia il nord, è lì che ancora si incontra l'antica forza della stirpe scandinava ed essa si affermava in ogni personaggio di Jane Eyre. Ma la curiosità, sia benevola che malevola, ebbe scacco matto.